Radio 24 e Salone del Libro 2012 presentano Piccolo Mondo Antico. Il 10 maggio a Torino apre l'edizione 2012 del Salone del Libro, che quest'anno compie 25 anni. L'anniversario è l'occasione per guardare al nostro recente passato culturale, ma anche ai prossimi 25 anni che ci aspettano. Sono tante le tecnologie che promettono di cambiare il nostro modo di consumare e produrre cultura, e tanti i cambiamenti che sono già entrati nelle nostre vite. Con Piccolo Mondo Antico, oggi raccontiamo come siamo passati da questo a questo. Anna carissima, hai 25,75. Cara madre, la presente. Scrivere una lettera a una persona cara, mantenere un rapporto epistolare con un amico o un familiare, accorgersi di essere rimasti a corto di francobolli. Tutte azioni che sono scomparse senza far rumore, ma che testimoniano il cambiamento nel nostro modo di comunicare. Se l'SMS ha preso il posto del telegrafo, la mail ha soppiantato la carta da lettera, le buste e le cassette della posta. Oggi, per scrivere una mail, non serve neanche la francatura. Mi dà un francobollo espresso. Grazie. Il cambiamento è iniziato quando ancora non esisteva internet. Circa 40 anni fa, i primi ricercatori riuscirono a spedire alcuni messaggi a diversi computer universitari americani collegati in via sperimentale. L'anno successivo, nel 1972, l'ingegnere Ray Tomlinson utilizzò per la prima volta la chiocciola per comporre un indirizzo email. Un vero tuffo nel passato, se pensiamo che la chiocciola è in realtà la rappresentazione stilizzata della preposizione latina ad, che significa verso, indicando così al computer l'indirizzo del destinatario. Per esempio, piccolo mondo antico @radio24.it significa: per spedire una mail a piccolo mondo antico, inviarla verso il dominio radio24.it. Caro Michele, mi decido finalmente a scriverti, dopo aver pensato molto se era giusto o no e che senso avesse. Smettila di giocare ad Amleto, a Leopardi, all'adolescente Modì, coscienza del mondo, e comincia a essere te stesso. Ma che stai dicendo? Ma che stai a dì? Ma io scrivo una lettera. Tra tutte, le lettere d'amore erano quelle più curate e conservate, più corrette, più rilette, fino a notte fonda, ciascuno alla propria scrivania. Erano lettere che, nella speranza di un buon esito, non prevedevano abrasioni e neppure le cancellature con un tratto di penna, che invece erano accettate in lettere meno importanti. Le lettere d'amore hanno insegnato a schiere di adolescenti l'arte della bella copia e ci hanno fatto sentire tutti almeno una volta dei piccoli scrivani fiorentini o dei monaci amanuensi. Ma qualche soluzione tecnologica c'era anche allora. Papermate Replay cancella così bene come scrive, e ora Replay ha 8 colori e ti regala le matite colorate. Una volta pronta, la lettera andava imbucata e poi si poteva solo aspettare. La mail invece permette un invio immediato, e se non è possibile obbligare il destinatario a rispondere subito, con l'avviso di lettura si può almeno essere certi che la mail spedita sia stata aperta. Ma non finisce qui. Oggi sono in commercio dei software per la dettatura dei testi, senza più la necessità di digitare sulla tastiera, e sono in via di perfezionamento soluzioni di interazione vocale tra PC e utente. Speriamo solo che la tecnologia non diventi così intelligente da rifiutarsi di spedire le nostre mail, magari ad un partner che non ci ama più. Questa conversazione non può avere più alcuno scopo. Addio. Piccolo Mondo Antico è un programma di Guido Scotti. Tutte le puntate sono scaricabili all'indirizzo www.radio24.it.